chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Il mondo dalla prospettiva del cane, che sicuramente è una prospettiva più sana della nostra, no? Eh beh, tante volte sì. Io volevo subito ricordare l'indirizzo per chi volesse scriverci, con farci domande, ed è chiedimi se sono felice @radio24.it. Tu vieni sempre in aiuto quando vedi che inciampo. Ragazzi, c'ho un'età e inizio a perdere colpi. A proposito, Angelo, allora io vorrei introdurre questo primo argomento qua. Aiutami tu, che mi fai... Sì, adesso però già c'è il cane che mi cammina davanti. No, adesso, a parte gli scherzi, io per la prima volta da quando ti conosco ho sentito parlare di segnali calmanti. Prima di quel momento lì non sapevo che cosa fossero, non sapevo nemmeno che esistessero, e quindi era una di quelle persone che banalmente imputava delle cose probabilmente sbagliate al cane. Per esempio, che ti posso dire, aspetta che mi si è incartato il cane, cioè, con la cuffia, che si sta attorcigliando, ci stiamo strozzando, che ne so. Per esempio, quando andiamo per strada, che tu una volta mi hai fatto notare, quando vai per strada e trovi quelli che ti chiedono la firma, certo. Noi non vogliamo firmare, facciamo una curva esattamente, oppure una vetrina diventa improvvisamente interessante, no? Esatto, e tu mi dicevi, e vorrei che adesso lo dicessi a tutta l'Italia, l'Europa e il mondo. Crediamolo. No, cosa sono? Cioè, cosa anche sono i cani fanno questo? Assolutamente. Non solo i cani? Eh sì, perché vivendo in gruppo hanno bisogno di un linguaggio che eviti i conflitti. Quindi i segnali calmanti hanno la funzione di prevenire e risolvere i conflitti. Che facciamo anche noi senza saperlo. Assolutamente, come per esempio curvare se c'è qualcuno ci chiede una firma. Oppure per strada. Oppure abbassare la testa guardando la parte di là. Spesso facciamo anche questo, oppure grattarci la testa quando ci chiedono informazioni, no? Sì. Per esempio. Quindi gli animali hanno queste cose qua, no? Quindi, e hanno l'effetto di calmare se stessi e gli altri. Nei cani, per esempio, abbiamo leccarsi il naso, girare la testa, sbattere gli occhi, scrollarsi, sbadigliare, annusare per terra, fare pipì, sdraiarsi, mettersi di fianco, ce ne sono una trentina. Ho capito, però detti segnali. Così poi uno deve anche saperli distinguere, perché il cane la pipì la fa, leccare il naso se lo lecca. Bravissimo. Però uno deve imparare a distinguere quando se lo lecca, perché ha appena mangiato e quindi si sta certo, avendo, bravissimo, come si dice, una goduria. Ma guarda, da pappa. È esattamente quello che stai dicendo tu, cioè dipende dal contesto, riesco a rilevarlo. Quando il cane ha finito di mangiare, se si lecca il muso, evidentemente il motivo è quello. Ma se io sono al parco, mi sto avvicinando ai cani, se ne avvicina uno verso il mio e vedo il mio cane che piega la testa per terra, la gira e si lecca tre volte le labbra, evidentemente questo è un segnale calmante. Se annusa per terra ma sta guardando il suo interlocutore, in realtà non è interessato a quello che c'è per terra, è un po' perdere tempo, no? Cioè, prendere tempo. Tu quindi dici che, per esempio, questa sarebbe una delle cose che la gente comune, i proprietari di animali, di gatti anche, no? Fanno le stesse cose. Sarebbe giusto che sapesse, per riconoscere di più che cosa gli sta dicendo il cane, se non è stressato, anche più o meno stressato, come abbiamo parlato in altre puntate. Bravissimo, perché la comunicazione è importante per stringere legame, è importante per capirsi, è importante per prevenire le risse, perché se io vedo che ci sono dei cani che stanno usando i segnali calmanti e sono in difficoltà, faccio una curva anch'io, non metto le mani in mezzo, no? Riesco a percepire questo dialogo. Ma se uno volesse saperne di più, esistono libri? Certo, beh, sul mio libro se ne parla, ma poi c'è un libro dedicato i segnali calmanti di Thury Drugas, che è stata l'educatore cinofilo che li ha codificati, edito da Achiana. Ci sono video, insomma, si possono raccogliere informazioni vaste da questo punto di vista, e ci sono anche dei corsi, dei seminari in giro. Io lo consiglio assolutamente, tanto che poi le persone, quando vengono lì e fanno il seminario sui segnali calmanti, per esempio nella mia scuola, il giorno dopo, cioè lunedì, tornano a casa e improvvisamente vedono segnali calmanti ovunque, nelle persone, nei cani. I cani fino a ieri non li vedevo. Ma a me due cose sono: quando tu mi hai spiegato cos'erano i segnali calmanti, mi capitava poi di andare in giro per strada e vedere la gente con i cani al guinzaglio e sapere perfettamente che tipo di vita facevano, in base intanto alla loro espressione, a come tenevano l'orecchia, quanto il collo era giù o su, se avevano proprio l'espressione degli occhi oltre che della bocca, oltre che la postura nel camminare. Non sono stata così contenta di sapere questa cosa, scoprire questa roba. Purtroppo scopro un mondo che, insomma, Perché tu tante volte ti accorgi adesso in fretta se un cane fa una vita felice che o no. Che non stanno bene, o se esatto. Se è un disagio, no. Pensa quanto può essere utile ai professionisti questa cosa. Però anche alle persone, non è un caso che il nostro programma si chiami Chiedimi se sono felice, no? Ora, chiedetevelo se i vostri cani sono felici, se i vostri animaletti da casa sono felici e così sì, potrete avere una vita migliore dopo. C'è una distinzione dopo. Anche qua che bisogna fare tra comunicazione in generale, quando tu parli di postura, espressione del volto per esempio, questi non sono segnali calmanti. I segnali calmanti sono segnali specifici, li ridico. Stai passeggiando per strada, incontri un cane, tu sei senza cane, ti viene qualcuno incontro, tu gli dici ciao piccolino, e lui invece di venirti incontro normalmente, oltre a questo, si lecca il muso. Oppure sbatte gli occhi o gira appena appena la testa oppure mantiene la distanza. Ma tu immagina per esempio quante volte noi chiamiamo il cane con un tono di voce forte perché magari ci stiamo arrabbiando e il cane rallenta. Quel rallentare o fermarsi è un segnale calmante, cioè il cane ci sta dicendo mi sono accorto che tu in questo momento sei arrabbiato con me. E quindi cerca di calmarci. E noi come tutta risposta che facciamo vediamo che il cane rallenta e ci arrabbiamo ancora di più. E il cane rallenta ancora di più. Ecco perché è importante conoscerli, no? Sbadigliare è un altro segnale calmante. Scrollarsi, che segnala anche un punto di passaggio tra un momento di tensione e un momento un pochino più rilassamento, rilassato. Sì, certo. Fare pipì anche può essere un segnale calmante. Che loro li hanno sia nel rapporto con noi esseri umani che fra di loro. Assolutamente sì. E infatti da questo punto di vista, quando uno dice ma allora come faccio ad insegnare al mio cane i segnali calmanti, perché devi sapere che per i cani è qualcosa di innato, come il linguaggio per noi, però a seconda se io del fatto che io eserciti o meno un linguaggio potrò parlarlo o meno. Se io nasco in Russia parlerò il russo, se sono in Italia parlerò l'italiano, ma se lo esercito questo linguaggio e se sono in Puglia parlo il pugliese per esempio. Allora, no, e ti volevo dire che cosa I cani fanno la stessa cosa. Cioè i cani fanno la stessa cosa. Che cosa fanno? Loro sono perfettamente in grado di parlare attraverso i segnali calmanti, ma bisogna dargliene la possibilità. E quando loro entrano nelle nostre case, noi vediamo loro fanno i segnali calmanti, ma noi non ce ne accorgiamo, non li vediamo. Perché non li osserviamo anche abbastanza. Sì, non siamo attenti a queste cose qui, no? E quindi il cane magari che si trova a disagio col bambino usa i segnali calmanti, il bambino non li legge, poi passa il ringhio. Certo. Però se passa il ringhio noi che cosa facciamo? Puniamo il ringhio. E il cane dice ok, segnali calmanti non li posso usare. Il ringhio non lo posso usare, la prossima volta lo mordo direttamente. Per educarlo, però certo. Sai, un morso su un bambino non è una questione. Allora, quindi, prima cosa, quando noi leggiamo i segnali calmanti, noi stessi dobbiamo rispondere con un segnale calmante. E a proposito dei segnali calmanti, ti segnalo una frase di Konrad Lorenz. E difatti, che volevo leggere, che mi è piaciuta tantissimo. Konrad Lorenz, che è uno scienziato storico. Padre dell'etologia, lo studio del comportamento animale. Allora, scrive, sull'inibizione che impedisce a un lupo di azzannare un suo simile che gli mostra la gola, scrive questo. Devo tuttavia confessare che nel mio sentimentalismo sono profondamente commosso e ammirato di fronte a quel lupo che non può azzannare la gola dell'avversario e ancor di più di fronte all'altro animale che conta proprio su questa sua reazione. Un animale che affida la propria vita alla correttezza cavalleresca di un altro animale. C'è proprio qualcosa da imparare anche per noi uomini. Io perlomeno ne ho tratto una nuova e più profonda comprensione di un meraviglioso detto del Vangelo che spesso viene frainteso e che finora aveva suscitato in me solo una forte resistenza istintiva. Se qualcuno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, l'illuminazione mi è venuta da un lupo. Non per ricevere un altro schiaffo devi offrire al nemico l'altra guancia, no. Devi offrirgliela proprio per impedirgli di dartelo. Non è stupenda questa cosa. Konrad Lorenz era veramente bellissimo. Un genio. Da quando me l'hai letta, devo dire che anch'io ho iniziato a rivedere la stessa frase del Vangelo. Se in un modo... qualcuno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, non è per ricevere un altro schiaffo che devi offrire al nemico l'altra guancia, no, devi offrirgliela proprio per impedirgli di dartelo. E questo è esattamente il significato dei segnali calmanti dei cani. Quando loro emettono segnali calmanti è per impedire aggressioni, impedire tensioni. Insomma, oggi è una puntata fantastica, perché vi vorrei dire che adesso passiamo dai segnali calmanti a un altro tipo di comunicazione ancora più sottile e meravigliosa. Infatti sono affascinatissima, credo che dopo la radio così ce lo coprirò di domande. Però adesso ci ascoltiamo la pubblicità, vi ascoltate un pochino di consigli e tra poi dopo poco parliamo di telepatia con Andrea Contri. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Allora, adesso parleremo di telepatia assieme ad Andrea Contri, che è qui con noi. Ciao Andrea. Benvenuto perché, a Radio 24. Perché il tema è caldo qua, no? Nel senso che uno come me proviene, a parte che io ho studiato anche fisica, però è tanto a contatto con gli animali, si accorge per esperienza diretta che ci sono delle cose strane che accadono a volte, però non può non rimanere anche un pochino perplesso, scettico, no? Per quello che ho detto io, Andrea lo devo portare in trasmissione, perché l'ho conosciuto un po' di tempo fa, ragazzo umile, brillante, ed è ingegnere. E quando è tornato a casa mi ha detto, se lo conosci tu, impazzisci, perché sai che sono... vedo l'ora di andare a casa e parlare con Andrea. Mi sono chiesto, ma cosa spinge un ingegnere, quindi uno si aspetta una mente logica, matematica, scettica, no? A esercitare telepatia con gli animali, cioè come ti è venuta a un certo punto questa roba qua? Ma io ho sempre avuto una passione per gli animali fin da piccolo. Giusto per darti un aneddoto, io quando andavo in montagna andavo a carezzare il toro dei miei zii e a coccolarlo, quindi quello per me era il massimo. E sono ancora vivo. Guarda, c'ho speranza di magari faccio un domani, posso imparare anch'io a fare telepatia, perché vai. Ma è tutto nato da quando facevo la tesi proprio in ingegneria ambientale in Inghilterra. Stavo guardando un documentario sull'Africa. E dopo 2 o 3 volte che dicevano guarda com'è bello, probabilmente ho rotto un po' le scatole ai miei coinquilini, mi hanno detto, ma se ti piace perché non vai? Allora, cioè, questi leoni in Africa? In Africa. Ah, in Africa. Io in quel momento lì mi è tornato alla mente un documentario visto un po' di tempo prima sui leoni bianchi. Ecco, quindi vado in rete, ci sono voluti 3 giorni, no? Perché inizio a cercare leoni bianchi, vengono fuori pub, gruppi musicali, tutto di più. Trovo il centro, quindi decido di andare in Africa e a fare un mese di volontariato, semplicemente per stare a contatto con la natura e questi esseri fantastici che sono proprio leoni bianchi col tartufo nero, gli occhi azzurri, sono incredibili. Il giorno prima di tornare in Italia ero in un pub con la fondatrice, che è Linda Tucker, e in quell'occasione lei mi ha detto, sai Andrea che si può parlare con gli animali? Allora in quel momento lì mi sono messo un po' a sorridere, ho detto è un sogno, come per dire volare per me, no? Chi è che non vorrebbe parlare con gli animali? E allora mi ha detto, guarda, domani prima di prendere l'aereo, visto che è la mattina libera e vai a fare il solito giro di monitoraggio dei leoni, cerca di comunicare con uno dei due fratelli, le Tabere e Jules, erano questi due fratelli, e trasmettigli amore e chiedigli se può venire vicino a te, tu chiamalo. Ho detto, ma com'è che si fa? Tu semplicemente trasmetti amore e chiamalo, concentrati e chiamalo. Sta di fatto che, fermata la Jeep il giorno dopo con una volontaria francese che guidava, metto la mano fuori dal finestrino, mi concentro, trasmetto amore, chiedo il permesso di comunicare e chiedo al leone di avvicinarsi. I due fratelli si avvicinano, al che concentro la mia attenzione, la focalizzo sul leone che aveva la criniera folta, che era quello un pochino più maestoso. Quando apro gli occhi e chiedo poi alla mia all'altra volontaria, ma quanto è durato questo il tutto? Fai dormito per mezz'ora. In realtà hai dormito per mezz'ora? Perché tenevo gli occhi chiusi per concentrarmi. Ma era passata mezz'ora? Io avrei detto 5-10 minuti, non di più. Ero proprio in un momento... Ma semplicemente concentrato, profondamente concentrato. La cosa che mi ha stupito è che, aprendo gli occhi, a 2 metri da me, proprio sulla mia sinistra, avevo questo leone bianco, quello con cui mi stavo concentrando, quello con la criniera folta. Proprio quello. Insomma, tu, io difficilmente invidio qualcuno, ma forse non mi viene in mente, non invidio mai nessuno nella mia vita, ma la possibilità, in questo caso Andrea, sì, la possibilità di comunicare veramente con gli animali credo che sia veramente un bellissimo dono, una bellissima esperienza, perché vivi, secondo me, con la parte quella sana del mondo, no? Della natura, del creato, proprio dell'essere vivente. Perché gli animali, mi stavi spiegando un secondo fa, quando io ti ho detto, però se tu comunichi con gli animali, comunicherai sicuramente, puoi comunicare anche con le persone, perché anche noi siamo animali, e tu mi hai detto la differenza che c'è fra noi e gli animali è quello che può creare un po' più di difficoltà, no? Per riuscire ad avere telepatia con l'essere umano. Sì, abbiamo molti più filtri, molte più barriere, già tra di noi quando ci comunichiamo verbalmente. Un esempio molto lampante è quando incontriamo un conoscente e gli chiediamo come stai. 9 volte su 10 dice sto benissimo, sto bene. E quindi noi diciamo, certo, sta bene perché me l'ha detto. Però avvertiamo a volte un senso di disagio. Questo è l'errore. Cioè noi confondiamo la comunicazione con la parola. La parola... Esattamente. Guarda, come quante volte ne abbiamo parlato prima. Al di là, no, della telepatia c'è già questo errore. Sì, sì, sì. Poi però... ci dicevi che effettivamente non c'è soltanto una questione di comunicazione non verbale, ma c'è qualcosa che senti. Sì, sì. Che avverti. Senti questo disagio, magari quando uno ti dice un qualcosa e tu dici, ma avverto che magari non è sincero. Quello che avviene quando comunichiamo con gli animali e quando loro comunicano anche con noi, perché noi siamo, dobbiamo essere semplicemente disposti ad ascoltarli, è proprio una comunicazione che non si basa sulla parola, ma si basa sulle nostre emozioni. Quindi noi, per i nostri compagni animali, siamo un libro aperto. In realtà non abbiamo bisogno di dirgli che oggi siamo stati, abbiamo avuto una giornata difficile al lavoro, anche se torniamo a casa sorridenti, ma noi dentro non sorridiamo, loro leggono tutto questo. Quindi figurati, fantastico. Oltre che io ho scoperto da poco che l'uomo stesso comunica verbalmente solo il 7% e poi c'è un 93% che è fatto di comunicazione paraverbale, quindi i toni, e non verbale, quindi i movimenti e i gesti. Ora c'è pure la comunicazione che va oltre, quindi quella telepatica, che però gli animali percepiscono in assoluto, sì, loro percepiscono quella più quelle dei segnali del corpo. Esatto, quando ad esempio siamo innamorati, perché la comunicazione si basa sul trasmettere amore all'animale, quando noi siamo innamorati nelle nostre relazioni di coppia, a volte ci capita di dire ti volevo chiamare, mi hai chiamato tu, l'ho pensato, te lo volevo dire io. Fantastico. Giusto per darvi un aneddoto, ieri eravamo a tavola, io ho detto ai miei genitori, è nato il bimbo. Mio papà prende il telefono, risponde, dice ah ciao Marco, è nato il bambino. Io credo fosse uno scherzo, in realtà due secondi dopo mio fratello dalla Danimarca ci ha chiamato per annunciare che era nato il nipotino. Vedi, anche per vedi amore, quanta vuol roba. Dire che allora non sei più innamorato, perché ultimamente non mi chiami più nel momento in cui io sento la tua mancanza enorme. No, voglio è dire la tua telepatia che deve raffinarsi. Però no, sai, no, sai, no no no, io telepaticamente, ma possiamo glissare su questo argomento che siamo qua a parlare di altro? Non lo so io, allora avanti, facciamo. Allora ad Andrea io ho chiesto una cosa, ascolta, ma visto che tu fai delle consulenze, cioè ti metti in contatto con degli animali, puoi per favore invitare qualcuno in trasmissione che ci racconti la sua esperienza con te? C'è qualcosa che ci possa aiutare a far capire perché l'esperienza diretta ti convince così tanto che effettivamente questa telepatia c'è? Perché poi parliamo anche di scienza, però l'esperienza diretta è importante. E allora Andrea ci ha portato una sfilza di persone. Abbiamo dovuto selezionare qualcuno e al telefono abbiamo Clara, che peraltro è un medico veterinario. Buongiorno Clara. Ciao, buongiorno. Buongiorno, senti, ma che ci dici qua di Andrea te? Ma guarda, allora io conosco Andrea da parecchio tempo, quindi quando mi ha parlato di questa esperienza ovviamente non ci ho creduto subito, nel senso che la mente scientifica ha prevalso e naturalmente ho detto ma vabbè, non ci credo tanto. Poi ovviamente c'è anche la parte di curiosità molto grande, quindi ho deciso di vedere con i miei occhi come funzionava. Uh-huh. E ho deciso di sottoporre uno dei miei casi clinici, quindi un animaletto che avevo curato, di cui ovviamente conoscevo già la storia medica, e di provare a vedere se le cose che avevo scontrato io alla visita e con le medicine erano le stesse che mi raccontava lui. Uh-huh. E, era una cavietta, una casa peruviana, si chiamava Vivo. E la cosa che mi aveva veramente colpito è che, senza sapere niente di questo animale, lui era riuscito a dirmi dove l'animale aveva male, quindi quello che io effettivamente avevo visto, e a farmi una descrizione dettagliata del mio collega, insomma. Quindi ovviamente davanti a dei disegni non puoi fare a meno di dire caspita è lui, quindi... Quindi scusa, cos'era una cavia, ho capito bene? Sì. Sì, una cavia. Quindi Andrea si è messo in comunicazione con la cavia. Sì, sì. Andrea non aveva mai visto il tuo collega? No, né il mio collega nemmeno la cavia. Nella cavia, perché l'ha fatto a distanza. L'ha fatto a distanza, quindi attraverso una foto? Cosa? Attraverso una foto, sì, una foto e il nome gli avevo dato. E il nome, quindi lui si è messo in contatto con la cavia e ti ha descritto il tuo collega? Sì, il dolore della cavia, il luogo dove la cavia aveva male. E mi ha descritto anche cose della famiglia, diciamo, della proprietaria, che ovviamente non ecco, non vedi? Quindi qua lo shock. Ben vengano gli scettici, perché lo scettico è più curioso di quello che invece già crede già, una cosa. Perché certo. Io, per esempio, con me ti dicevo prima, con me sfondi una porta aperta, perché io credo a queste cose qua, non solamente perché sono una credulona, perché poi Vaira ci spiegherà che ci sono studi su studi. Però invece lo scettico proprio in realtà vuole sapere, per mettere alla prova e per dire ah vedi, t'ho beccato che invece non era vero, e poi sono quelli che rimangono più basiti di tutti. E grazie a loro, vedi, possiamo... Ci sono altre cose che ci puoi raccontare, Clara? Ma guarda, ultimamente abbiamo fatto una cosa tra virgolette un po' al contrario, nel senso che è stato lui a chiamare me per avere un riscontro su un caso clinico che non avevo seguito io direttamente, per cui io ho dovuto guardare la cartella al computer perché non era un mio paziente, però le cose che lui mi raccontava di aver visto effettivamente i miei esami e i commenti dei miei colleghi li confermavano. Quindi se non ho era un cane invece. Era un cane, quindi un proprietario si è messo in contatto con Andrea e ha fatto fare appunto attraverso la foto sempre comunicazione, e questo cane ha raccontato attraverso avrebbe raccontato ad Andrea attraverso la telepatia i suoi disagi, che sono corrisposti alle analisi che gli avete fatto, esattamente. Gli esami, il dolore, esatto, non so. Tutte le cose che... Esatto, le cose che erano state viste, quindi era un cane con un problema di anemia grave, e Andrea, che non è sicuramente un medico, quindi mi parlava di cose che per lui non specifiche. Sono cose mediche, però io che capivo quello che mi stava chiedendo, nel senso che mi diceva dei termini, io dicevo sì, questo è vero, ed effettivamente abbiamo avuto un bel riscontro, insomma. Grazie Clara, è stato sicuramente dal punto di vista di un veterinario una testimonianza forte, importantissima. È forte. Grazie mille. Prego. Grazie Clara. Ciao, buona giornata, buon lavoro. Buona giornata. Ciao. Andrea, come la mettiamo qua? No, ci devi spiegare? A parte che Andrea farà dei corsi, diciamolo a tutto il mondo, io non vedo l'ora di fare il primo corso con te, ma la gente ti chiama soprattutto per chiederti che cosa? Quali sono le domande più frequenti? Cioè, che aiuto vogliono da te? Allora, le persone chiamano solitamente quando ci sono dei problemi da risolvere, quindi molto spesso diciamo sei l'ultimo spiaggia. Step, esatto, quindi hanno fatto tutte le cure dal veterinario, esatto, il toilettatore. Allora dicono a questo punto tanto vale, proviamo anche con la telepatia. E quindi ci sono problemi comportamentali, problemi fisici. Su questo punto qui voglio precisare che, come giustamente detto Clara, io non sono un veterinario, non mi sostituisco al lavoro prezioso dei veterinari, ma sono delle informazioni, delle nozioni che possono aiutare, agevolare il lavoro del veterinario o del padrone. Ci sono poi anche altre persone che semplicemente vogliono sapere come sta il loro animale, però anche nella semplicità di una domanda, di sapere se il cane è felice. Vedi. Quello che esce fuori non è tanto il cane che ti dice mi piace fare la passeggiata al parco, ma ti parlano della famiglia, ti parlano delle loro esperienze, ti parlano di quello che il padrone ha bisogno, perché loro lo sentono. E tra poco altre testimonianze con anche Andrea, che ci deve spiegare come ha imparato a fare questa cosa e come si può. Io vorrei dire anche una cosa, sto benissimo in radio a fare questo programma, vorrei farlo per 10 anni 20 anni, ma da oggi non vedo l'ora di venire a casa con Andrea e chiedergli queste cose qua. Vedi, tra poco, chiedimi se sono felice, @radio24. State ascoltando un programma offerto da... Accanto ad ogni cucciolo felice c'è un amico con la maiuscola, Arcaplanet, www.arcaplanet.it. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Stiamo parlando di telepatia con Andrea Contri e Rosita Celentano. Al programma Chiedimi se sono felice, @radio24.it. E proprio Chiedimi se sono felice, o meglio, gli chiediamo se è felice, è la richiesta che Silvia ha fatto ad Andrea, giusto? Sei in linea Silvia, buongiorno. Sì, ci sono, buongiorno. Ciao buongiorno. Silvia. Senti, quindi tu a un certo punto hai saputo di Andrea e gli hai detto mi dici se il mio cane è felice, ti metto in contatto con lui, giusto? Esatto, sì, giusto. E cosa è successo? È successo che Andrea si è messo in contatto col mio cane e ha dissipato ogni mio dubbio sulla comunicazione animale, perché ovviamente all'inizio ero un po' scettica, però lui ha dissipato i miei dubbi perché comunque il mio cane, che si chiama Eddie, gli ha detto dei particolari della mia vita che Andrea non poteva sapere. Ad esempio? Magari non li vuole far sapere adesso. No, siamo qua, devo indagare e me lo deve. Scusa, non ho capito. Scusa Silvia, magari dovevano sapere solamente Andrea, Eddie, il cane e Silvia. Esatto, tutta l'Italia, l'Europa, il mondo che segue Radio 24. No, posso svelarli, nel senso che un particolare molto importante che gli ho detto non poteva, cioè veramente non poteva saperlo, è che io l'anno scorso, cioè la scorsa estate, con una mia amica la mia migliore amica, che anche lei ha un cane, con lei passeggiando con i nostri cani dicevo: dai, quest'altro anno, cioè questa estate del 2015, andiamo in Corsica, che mi hanno detto che sono molto accoglienti coi cani. Quindi ne parlavo con lei, ma non l'ho detto a nessun altro. E Andrea, comunicando con Eddie gli avrebbe detto: sì, la Corsica va bene, voglio andare al mare. Vedi, quindi, cioè tu non avevi detto ad Andrea questa roba qua, Andrea l'ha saputa? Assolutamente no, tra l'altro Andrea quindi... non ha detto, cioè non è stato sul vago che ha detto: ma Eddie dice che gli piace, vuole andare al mare, cioè ha detto proprio Corsica. E questo Andrea non lo poteva sapere. Quindi cioè, Andrea poi è venuto da te e ha detto: guarda che il cane mi ha parlato della Corsica, che ci vuole andare. Ci siamo sentiti telefonicamente, perché dopo lui, quando comunica con gli animali, dopo ti chiama per dirti quello che ha sentito. E tra le altre cose che poi mi ha detto altri particolari, mi ha chiesto se ballavo, lui non poteva saperlo, io faccio l'insegnante di fitness, lui mi ha detto: ma tu che lavoro fai, balli? Perché il mio cane Eddie gli avrebbe fatto vedere un'immagine di me che ballo in casa. In realtà è vero, cioè io provo le coreografie delle mie lezioni in casa davanti a Eddie. E il cane, ascolta, tornando alla domanda, che cosa fa tutti i giorni? Tornando alla domanda a bomba, il cane quindi è felice che ti vede ballare per provare le coreografie? Sì, lui si mette sul divano e dice: uffa, cioè mi guarda come per dire: ecco, perché sai, mi deve un po' girare al largo, perché è piccolino, 2,5 kg, sì, certo. Quindi cioè, sa che rischia di essere pestato se si gira per casa. E Andrea vuole dirci qualcosa. Ma, Silvia, visto che stiamo parlando di felicità, io tirerei fuori l'aneddoto dei pantaloni, perché quello proprio è l'esempio della felicità e di come sono astuti anche i nostri compagni. Sì, perché quando Andrea ha comunicato con Eddie, all'epoca frequentavo un ragazzo e praticamente questo ragazzo, insomma, ha accettato Eddie, nel senso che veniva amoroso anche dal cane, non solo da me. Perché io, anche quando io andavo da lui, io Eddie cerco di portarmelo sempre dietro. E niente, questo ragazzo, questo mio ex ragazzo molto carino, con Eddie ci giocava, e Eddie praticamente si divertiva molto a giocare con lui, a prendergli i pantaloni. E praticamente lui ha detto: io posso fare quello che voglio con questo ragazzo, perché lui tanto non mi dice niente, perché vuol fare bella figura con lei. Ah, questo è quello che ha detto ad Andrea? Sì. Mi ha fatto vedere proprio l'immagine dei pantaloni che lui tirava, e con questa frase. Allora ho detto: ma fa qualcosa il tuo ragazzo coi pantaloni? Al che Silvia mi ha svelato questo aneddoto e abbiamo capito perché lo fa, se ne approfittava del ragazzo. Vedi, ed era felice di questo. Sì, felicissimo. No, vedi. Fantastico. Senti, Silvia, grazie, che dire? Sì. No, grazie tante, Silvia, è molto importante per noi questo, no? Perché fin quando uno viene qui... Io finisco dicendo solo una cosa, sì. Io non ho mai avuto cani, non ho mai avuto animali, tra l'altro ero anche abbastanza della serie sì carino, ma stai lì, cioè tu sei lì e sono qua. Ma gli animali sono meravigliosi, veramente, io non credevo, ma sono esseri magici. Ti hanno cambiato la vita in meglio. Eddie, tra l'altro, lo diceva anche Andrea, dico questo poi vi lascio, che è importantissimo. Con Andrea Eddie gli avrebbe detto: io sono un cane guaritore. E non è a caso, perché comunque io ho preso Eddie in un momento della mia vita nel quale o prendevo Eddie o andavo in farmacia a prendermi degli antidepressivi. No, è vero, ero veramente, e Eddie ha portato, cioè mi ha aiutato tantissimo. Cioè Eddie ha raccontato questo ad Andrea, quindi vuol dire che era consapevole del suo ruolo. Cioè del motivo per cui... Sì, esatto, e anche detto, dopo lì proprio ha anche dato un messaggio molto bello che io ho riportato anche come testimonianza sul sito di Andrea, che Eddie avrebbe detto: la nostra presenza, che è quella degli animali, aiuta le persone ad affrontare i problemi, a ritrovare se stessi. Ed è vero, a me, cioè per me ha fatto così. Io quando ho preso il cane, l'ho preso perché le mie amiche: dai, prendi il cane, vedrai che ti aiuta, vedrai che sei. Ma io ero scettica, e quando l'ho preso da piccolino ho detto: oddio, cosa ho fatto? Adesso sono innamoratissima di lui, lo adoro. E lui sicuramente che contraccambierà tanto amore che gli dai. Lui, sì, assolutamente. Siamo veramente una famiglia, io e lui, veramente. Grazie, cioè, Silvia, sei stata fantastico, utilissima. Grazie, davvero, Silvia. Grazie. Vi saluto. Salutaci, Eddie. Saluta Eddie, ciao. Ciao, Andrea, ciao. Ciao. Senti, Andrea, ma abbiamo delle domande, no? Sì. Una signora dice: io ci credo, dipende dalla pulizia della mente, dall'intenzione che deve esserci verso la gioia e dal rispetto e amore per l'altro, no? E fatta questa premessa dice: potresti chiedere ad Andrea se la sua esperienza prevede anche un percorso spirituale, oppure si basa su tecniche o è un dono? Questa è la domanda di Fabiana. Sì, Fabiana ha toccato dei punti molto, molto importanti. La comunicazione si basa su tre principi più uno. Uh-huh. I tre prendiamo principi appunti, sono amore, rispetto e gioia. Ah, quindi l'amore è praticamente la base della comunicazione. Noi dobbiamo trasferire amore incondizionato verso i nostri compagni. Il punto che aggiungerei per chi fa telepatia con gli animali, e questo è il mio percorso, è la responsabilità. Io vivo molto questa responsabilità nei confronti anche delle persone, soprattutto degli animali con cui ho l'onore, insomma, di comunicare. Percorso, entrando proprio nel mio percorso, io in realtà non ho fatto dei percorsi particolari prima della comunicazione. Io ho avuto questa chiamata da parte dei leoni che mi hanno portato a fare una serie di esperienze. Mm-hmm. Fin da ragazzo io ho iniziato a fare una serie di viaggi, dall'Amazzonia a vivere con gli indigeni, i leoni, in Malesia con gli orango, e solo dopo ho capito che erano tutti pezzi di un puzzle che si è composto, e l'ho capito solo scrivendo un po' tutta la mia esperienza. E quindi io non ho, diciamo, la tecnica è importante, nel senso che io, se mi chiedevi prima del 2008 puoi comunicare con gli animali, ti avrei detto di no, non so neanche come mm-hmm. si fa. Ho fatto dei corsi, ho studiato, quindi li ho fatti un po' in giro per il mondo, ho studiato moltissimo in Sudafrica. Qui tanti anni sono andato in Sudafrica uh-huh. a fare pratica, quindi parliamo di leoni, balene, cavalli, pinguini, un po' tutti gli animali che si trovano uh-huh. soprattutto nel Capo di Buona Speranza. Quello è stato il mio percorso. Non c'è solo tecnica, c'è anche la tua apertura, la tua emozione. Devi proprio metterti in gioco e devi aprirti in un modo proprio molto puro. No, però devi essere sì, aperto a varie cose. Ma io volevo dire, tu farei dei corsi, no? Sì. Per le persone che vogliono avvicinarsi a poter avere telepatia con gli animali. Credi che chiunque può arrivare a questo risultato, oppure c'è chi è più portato e chi è meno portato? Il dono di cui si parlava. Allora, prima. Io sono convinto che non sia un dono, no. Cioè, la telepatia è un'abilità che abbiamo tutti dentro di noi, deve essere solo risvegliata. Qualsiasi bambino che non ha ancora avuto i preconcetti della società comunica, e quindi non stoppate i vostri bambini quando vi dicono il gatto mi sta dicendo quello nella sua fantasia, certo. Ma sta comunicando con il gatto. La telepatia è un'abilità, è come correre, quindi tutti noi possiamo correre. Poi ci sarà chi va a fare la corsetta la domenica, chi andrà alle Olimpiadi. Però se tu mi chiedi se si può comunicare, ti dico sì, tutti possono comunicare. Ovviamente per fare lo step, per arrivare alle Olimpiadi e fare i 100 metri sotto i 9 secondi, lì ci può essere una parte di predisposizione. Sì, però che tutti noi abbiamo l'abilità di comunicare, certo, con gli animali. Quindi come c'è chi sviluppa poi l'abilità del linguaggio, delle prestazioni atletiche più di un altro, però tutti quanti di base ce l'abbiamo. Certo. Scusa, vada. No, volevo, siccome no, so poi che Angelo, tu, se ce l'ho fatta io. No, vabbè, ma tu secondo me sei portato. Invece io voglio rivolgermi un attimo alla nostra Celentano, perché so che tu ami molto Papa Francesco. Da morire, ma mica solo io. Allora. Cioè, da quando c'è Papa Francesco credo che è tornata la voglia a tutti quelli appisolati tipo me di ritornare a praticare anche un po' di più, per esempio. E infatti, allora, Andrea si è presentato oggi negli studi di Radio 24. Con l'enciclica di Papa Francesco. Abbiamo comprato, ma non abbiamo ancora letto. Non abbiamo ancora letto perché abbiamo da leggere altre cose. Comunque, a parte questa cosa qua, ha sottolineato dei punti particolari. Siccome poco fa parlavamo di amore, gioia, no, Andrea? Certo. Allora, leggo quello che Andrea ha sottolineato dell'enciclica di Papa Francesco a proposito di amore e innamoramento. Papa Francesco qui parla di San Francesco. La sua testimonianza ci mostra anche che l'ecologia integrale, che è quello di cui parla nell'enciclica, richiede apertura verso categorie che trascendono il linguaggio delle scienze esatte o dalla biologia e ci collegano con l'essenza dell'umano. Così come succede quando ci innamoriamo di una persona, ogni volta che Francesco guardava il sole, la luna, gli animali più piccoli, la sua reazione era cantare, coinvolgendo nella sua lode tutte le altre creature. Egli entrava in comunicazione con tutto il creato. È fantastico. Favoloso, no? Sì, difatti io, questo Papa mi ha fatto tornare la voglia di praticare un po' di più, no? Io sono credente, cattolica, cristiana, che poi non ho mai capito la differenza fra cattolica e cristiana, ma me lo spiegherete poi. In un altro momento. No. Comunque, e questo Papa è la prima volta che sento veramente di una persona che ha un ruolo così importante parlare degli altri esseri viventi come gli animali, i cani, la natura, l'ecologia, il rispetto per la terra e per tutto quanto, e io francamente ho 50 anni, non ricordo di aver sentito altri papi averne parlato in un modo così diretto. In questo modo, così, non è un caso. È bello che si chiami Francesco e che risuoni questa cosa, esatto, qua, rispetti davvero. Senti Andrea, ma quindi a questo punto, se per esempio mi vengono in mente degli episodi, no, che sono capitati a me, sì, nel mio lavoro, ne sono capitati tantissimi, no? E ogni volta mi chiedevo, ma caspita, c'è qualcosa in più, no? Per esempio, una volta una signora mi ha detto, cioè mio marito che fa coaching via Skype per la corsa, vuoi fare coaching con me via Skype per i cani, visto che abitava lontano e non ci si poteva vedere per fare normalmente educazione? Quindi mi ha raccontato che i suoi due cani abbaiavano di sera, di notte, ce n'era uno dei due in particolar modo che abbaiava di notte, l'altro la seguiva e poi, questo per dei rumori che c'erano fuori, andavano avanti a iosa in questo modo per tutta la notte, fino a quando qualcuno non scendesse in taverna, ma a questo punto si svegliava, insomma diventava problematico, questo stava perdendo il sonno, no? Io ho detto, guarda, non so dirti precisamente perché dovrei farti delle domande e tenerti qui tanto, quindi io ci penso se si può fare questa cosa via Skype. Nel frattempo però ci vediamo tra 15 giorni, perché dopo 15 giorni c'era un seminario sui segnali calmanti, tra l'altro, e dopo 15 giorni ci si incontra quindi al seminario. Io ho detto, beh, allora raccontami un po' meglio di questa cosa qua che succede di notte, che voi vi svegliate per i cani che abbaiano. E lei mi ha detto, ma lo sai che da quella volta che te ne ho parlato i cani hanno smesso di farlo e non lo fanno più. Esatto, perché anche a me è capitato di persone che mi contattano e poi dicono, guarda, ho già risolto. Grazie Andrea, ma è stato fantastico e ha risolto. Ho detto, guarda, io non ho fatto assolutamente nulla. Nulla. In realtà, quando uno si apre alla telepatia, alla possibilità, non tanto alla telepatia, ma alla possibilità di entrare in contatto con i loro compagni, in realtà loro stessi iniziano a comunicare. E ho avuto, se vuoi, guarda, due o tre aneddoti molto simpatici. Uno era di un cane che Axel, problema di aggressività, non poteva entrare una persona in casa, era un demonio. Quando io comunico col cane, lui mi dice, guarda, sono loro che mi chiedono di far la guardia, di essere così. E ho detto, ma guarda, è impossibile, perché sono loro che mi stanno chiedendo di essere più tranquillo. Quando ho chiesto al padrone, ma cosa gli dite di fare la guardia? E gli ho detto, dite di fare la guardia quando uscite, quando andate fuori. In questo modo, comunicando in modo corretto, verbalmente, grazie all'informazione che ha dato Axel, hanno risolto il problema. Vedi anche questo. Fantastico. Però adesso facciamo un attimo un break e poi ritorniamo ancora con Andrea a parlare sempre di telepatia con gli animali. Scriveteci, chiedimi se sono felice, @radio24.it. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Ma chiedimelo se sono felice. Sei però, felice? Sì, sono molto felice. Poi oggi in modo particolare. Puntata leggera, bella, ma interessante. Ma che leggera, puntata sostanziosissima, no? Leggera, anzi per me ma non è pesante, ma è bella, proprio carica di passione e di emotività. Allora, siamo sempre con Andrea Contre, stiamo parlando della telepatia con gli animali, ma una cosa che volevo capire io, com'è che fai tu? Cioè, com'è che entri in telepatia con l'animale? Stai con l'animale, col cane, il canarino, il gatto, il leone, il cavallo, mi hai detto che hai fatto un sacco di animali, non sì, solo cani. Sì, in quattro continenti diversi, sì, un po' di tutti, dagli orangoli, scimpanzé, al leone. Diciamo che c'è un metodo? C'è sì, un metodo? Quella procedura. Sì. Volete step by step? Step by sì, step. Sì, esatto. Allora, il primo aspetto è quello di poter pulire la mente, quindi riuscire a quietare la vostra mente razionale, svuotarla da tutti i pensieri che avete nella giornata, che vi siete portati fino a quel momento, per essere completamente dedicati al vostro compagno. E questo, diciamo, è un aspetto molto importante. E anche difficile riuscire a togliere tutti, certo, i vostri pensieri, svuotarla completamente. E il secondo step è quello proprio di trasmettere un amore incondizionato al vostro animale. Potete immaginare proprio anche un ponte di luce, una cosa proprio molto per facilitare un concetto, che esce dal vostro cuore e arriva al cuore dell'animale. Quindi riuscire a creare questo contatto che si basa sempre sulla trasmissione di amore incondizionato. Chiedere sempre il permesso all'animale di poter comunicare con lui, perché non è questo che questo è il terzo passo, praticamente. Sì, non è che noi, se vogliamo comunicare, lui è obbligato a comunicare, certo, con noi. Dopodiché è la parte più, tra virgolette, semplice, ma la più difficile, perché la nostra mente razionale entra sempre in gioco. Io la chiamo la streghetta cattiva, no? Perché io sono il primo scettico su me stesso, ed è fidatevi delle vostre intuizioni. Quindi scrivete quello che arriva. Allora, le informazioni possono arrivare sia attraverso immagini, sia attraverso sensazioni fisiche o attraverso dei pensieri. Ognuno di noi ha un'energia particolare, quindi se noi comunichiamo con un animale non è detto che le informazioni arrivano uguali per tutti. Certo. Perché in base all'energia che noi abbiamo siamo più predisposti a ricevere determinati messaggi. Il primo corso che ho fatto in Inghilterra, a Brighton, avevamo questa foto, abbiamo fatto a distanza tramite un'immagine. Ecco, questo è un aspetto importante, potete farlo sia con l'animale davanti a voi che con attraverso l'immagine. A distanza, quindi. Esatto. Noi siamo in radio e se voi adesso, dopo la trasmissione ovviamente, chiudete la radio, non sentite la musica o la trasmissione, ma se l'accendete su Radio 24 sentirete esattamente questa frequenza. La foto dell'animale, o se l'avete ancora meglio in persona, serve per allineare la vostra energia con l'energia, quindi con la frequenza di quell'animale e non quella di un altro. Senti, scusami una domanda, sì. Ma tu fai meditazione? Allora, no, non ho mai fatto meditazione. Però io come prima, stavi spiegando è... Prima di comunicare faccio un esercizio di respirazione e nella quale... Che serve a pulire la mente. Esatto. Mi aiuti in questo. In realtà io non sono molto avvezzo della meditazione, ammetto tante mie ignoranze e anche su questo mi sento proprio all'inizio del mio percorso. Ma tu oggi... figurati cosa sarà Andrea quando sarà un adepto della meditazione. Senti, ma se uno ti chiedesse, sì. Andrea, ciao, che lavoro fai? Piacere, che lavoro fai? Ma allora, infatti questa è la domanda e quando me lo chiedono dico, ma quale lavoro intendi? Esatto. Perché la comunicazione è iniziata un po' come un hobby ed è proprio un vero e proprio secondo lavoro. Mi tiene impegnato tutte le sere, tutti i weekend, le vacanze. Secondo me diventerà il primissimo in assoluto. Arriverà anche questo passaggio, quindi in base alle occasioni sono un ingegnere o un comunicatore. Però una cosa che volevo dire è questa. Non è tanto importante comunicare telepaticamente con un animale, è importante il messaggio che la comunicazione porta. C'è proprio questo amore che noi trasmettiamo, questo amore vi potrà aiutare nelle relazioni con le persone, vi potrà aiutare nella vostra vita di coppia, vi potrà aiutare col vostro compagno animale. Quindi è proprio un approccio che noi abbiamo alla vita, di unione e non di separazione. Se uno è interessante, volesse... No, infatti è fantastico. È interessante il fatto che ci sia questo amore, no? Che c'è. E poi alla fine di questa puntata voglio leggere o far leggere direttamente ad Andrea l'insegnamento dell'orso, perché lui a un certo punto si è messo in contatto con un orso che gli ha dato degli insegnamenti che sono bellissimi, li ho letti prima. Nel frattempo però al telefono abbiamo un'altra persona che Andrea ha aiutato, mi sembra che si chiami anche lui Andrea. Esatto, Andrea. Che è un cacciatore. Pronto? Pronto Andrea? Pronto. Buongiorno. Ciao, buongiorno Andrea, un ex cacciatore. Bravo. Ex cacciatore, io non volevo infatti, dire io nulla, sono il popolo qua degli animalisti si fa sentire. Bravo, no? Un ex cacciatore. Però insomma, Andrea, allora, so che tu di lavoro fai il regista, è corretto? Sì, sono un regista, un autore televisivo. Ecco. Ma noi ci conosciamo, Andrea? Conosco la tua mamma con cui ho fatto X Factor. Ah, ecco, vedi. E allora forse ci siamo anche visti. Vogliamo dire il cognome? Marchi. Andrea Marchi, benissimo, benvenuto. E allora, visto che ci si conosce per la famiglia, eccetera, ma di Andrea Contri invece che ci dici? Che cosa è successo di così speciale? Guarda, è successo questo, che mi aveva parlato di lui un'amica comune che ci ha fatto poi incontrare. Chiaramente con il mio mestiere io sono necessariamente curioso delle storie delle persone. Eh sì. E ho incontrato Andrea con grande scetticismo, devo dire la verità. E tutti lo incontrano con grande scetticismo, Andrea. Infatti. E mi sono fatto raccontare prima la sua storia, dopodiché a sorpresa ho tirato fuori una foto del mio cane, perché ho detto vediamo subito la prova del 9. E alla prova del 9 devo dire che l'ha superata in pieno. Devo dire che innanzitutto mi ha raccontato che i cani, soprattutto se sono stati presi quando sono molto piccoli, considerano genitori i proprietari di casa. Certo. Praticamente mio padre e mia madre, con cui il mio cane stava, erano diventati automaticamente i genitori del mio cane. È corretto anche dal punto di vista scientifico, peraltro, recentemente si sa questo. Però la cosa che nulla a che fare con la scienza è che la prima cosa che mi ha detto Andrea è che il mio cane gli ha raccontato che mio padre claudicava. Zoppicava dalla gamba destra, la cosa mi ha lasciato abbastanza a bocca aperta subito. Mi ha descritto perfettamente la mia famiglia, mi ha descritto tutta una serie di cose che soltanto Kaiser poteva sapere. Kaiser era il mio cane. So, un nome impegnativo Kaiser, poverino. Ma perché arrivava da un altro cane che aveva avuto prima di lui, quindi lo tramandavo da un cane all'altro. Ah, okay. Il primo era un boxer, questo era un setter, quindi essendo un boxer di origine tedesca, gli avevano dato quel nome, probabilmente qualche simpatizzante del passato. Tu eri molto legato a Kaiser, vero? Sì, moltissimo. Si sente tanto. Ero l'unico cacciatore, credo, che baciasse il suo cane ogni volta che gli fermava una preda, quindi giuriamoci. Ero particolare. C'è qualche aneddoto che Andrea ha fatto venire fuori di Kaiser, qualcosa che, a cui lui era legato? Non so, anche Andrea Contri. Guarda, mi ha descritto perfettamente dove tenevo il guinzaglio. Mi ha detto che il guinzaglio del cane era appeso in alto, quindi ogni volta che io alzavo la mano verso il guinzaglio lui mi cominciava a impazzire di felicità. Mi ha descritto il fatto che ogni volta che aprivo il bagagliaio della macchina lui si catapultava in macchina, perché chiaramente per lui l'apertura del bagagliaio significava che lo portava a caccia. Uscire. Era felicissimo. E Andrea, se posso permettermi, a me quello che è rimasto colpito era proprio il messaggio che ti aveva dato sulle foglie secche. So se ti ricordi. Di tornare a sederti sulle foglie secche. Sì, perché era classico poi soprattutto dell'autunno, del periodo invernale, la caccia, quindi spesso ci fermavamo, partivo per la mattinata di caccia con lui, mi fermavo a pranzo, condividevo con lui il mio panino e lo facevamo sotto un albero di quercia dove c'era un sacco di foglie secche. Insomma, vivevo un po' la caccia da poeta, se così si può intendere. Senti Andrea, ti posso chiedere, se vuoi non rispondere, come mai ex cacciatore? Ex cacciatore, perché la cosa strana, oltretutto, è che quando ho fatto vedere la foto di Kaiser ad Andrea, Kaiser era morto da 8 anni. Ah, e io non vado più a caccia da allora, perché la caccia per me senza Kaiser non ha più senso. Quindi, per questo motivo. Quindi non soltanto Kaiser ha saputo descrivere queste cose, ma tra poco, allora, appena mettiamo giù con Andrea ci racconterà perché succede questa cosa, perché Kaiser non c'è più. Cioè, quindi lui è riuscito a fare telepatia con un cane che non c'era già più. Assolutamente. Straordinario. Assolutamente. Senti Andrea, io ti ringrazio tantissimo, mi ha anche toccato questa tua testimonianza, si percepisce tanto il legame che avevi con questo cane, mi ricorda il mio Lucky, che era un cane da caccia anche lui. Beh, ma scusa, posso fare una domanda? Magari sì, non c'entra nulla, ma può essere Kaiser non ha dato, visto che tu hai fatto, sto chiedendo ad Andrea Contri, visto che tu hai fatto comunicazione telepatica con lui e lui già non c'era più, lui non ti ha dato un messaggio del tipo che magari si rivedono poi a un certo punto con Andrea? Questo è possibile, a volte gli animali tornano, quindi abbiamo un animale che entra nella nostra famiglia e ha gli stessi comportamenti di un altro animale e ci diciamo guarda, ma sembra che sia proprio lui, sembra che sia tornato. A volte questi messaggi arrivano e nel caso di Andrea questo messaggio non era arrivato. Ma non è però arrivato perché non è stata fatta la domanda specifica? Ma sai, ogni comunicazione è a sé. Ok. Quindi quando entri, soprattutto in comunicazioni anche così delicate e importanti, soprattutto quando un animale non è più con noi, è molto lasciato a quello che l'animale vuole condividere. In quel momento lì Kaiser ha voluto dare una serie di messaggi ad Andrea, anche sulla sua vita di oggi, dei consigli. Ed è la lezione più bella che ho imparato con questo tipo di comunicazione, che la morte è un concetto mentale che abbiamo noi. Certo. In realtà non esiste separazione. Eh già, perché se ha comunicato, certo che no. Sì, perché la comunicazione non è tanto che l'animale non c'è più. Noi comunichiamo con l'energia e l'energia, questa è una legge fisica, non sparisce, si modifica, ma è sempre lì l'energia del nostro animale. Ecco, lo approfondiamo allora questo argomento qui. Bene. Andrea è ancora in linea? Sì, sono ancora qua. Ti ringrazio tanto. Figurati. Grazie Andrea. Ciao Andrea. Magari ciao, ci incontriamo da qualche parte. Può essere. Ciao Andrea, grazie. Ciao. Allora, chi volesse scrivere, chiedimi se sono felice @radio24.it e ci vediamo domenica prossima. Ciao. Un saluto, ciao a tutti, ciao, grazie. Ciao.